Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Paolo Fazzini, regista del documentario Una vita all'assalto, al cinema da giovedì 20 giugno 2024, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Cos'è questo lavoro? Questo è un lavoro che avevamo in cantiere da più di 2 anni e grazie a Francesco Principini, che è il coregista, e a Paolo Guerrieri, che è il montatore e coautore insieme a me, sono insomma loro le prime persone che mi hanno iniziato ad assistere in questo percorso. È un lavoro che volevamo fortemente perché conosco e frequento Assalti Frontali dai primissimi anni 90 e la mia sensazione è sempre stata quella che non gli fosse ancora attribuito il merito che hanno, ecco, e non solo da un punto di vista musicale. Siccome, ripeto, ho vissuto tanto quegli anni e anche gli ultimi anni, sapevo cosa stava facendo Luca militantare, le scuole, eccetera, abbiamo avuto la sensazione che fosse ora di fare un documentario, ecco. Come l'hai strutturato? Il volere di tutti era quello di non fare un'operazione nostalgica, cioè ovviamente c'era da raccontare gli inizi degli anni 90 di Assalti, quindi da Onda Rossa Posse, e ovviamente sono partiti da Radio Onda Rossa per poi trasformarsi in Assalti Frontali, con tutte appunto le trasformazioni che hanno avuto nelle formazioni musicali. Però volevamo anche raccontare quello che stanno facendo oggi. Il lavoro è incentrato su Luca, che è il membro del gruppo che l'ha fondato e che porta avanti tuttora l'attività. Per cui, da un punto di vista proprio di struttura, c'è una forte alternanza tra passato e presente. Proprio nella costruzione della narrazione, volevamo che ogni sequenza del passato fosse collegata a qualcosa di attuale, proprio per far capire che questa storia di Assalti Frontali continua tutt'oggi. Su quali elementi l'hai voluto centrare? È una bella domanda, ce ne sono tantissimi, perché tantissimi sono gli ambiti che coinvolgono Assalti: la musica prima di tutto, con i testi, con le basi, con i live, tutta una storia di live molto intensa. Però la loro storia si intreccia anche alla storia d'Italia dal 90, insomma dalla prima repubblica fino a oggi, e soprattutto anche le trasformazioni che la nostra società ha avuto. La musica di Assalti ha sempre raccontato dal 90 a oggi con i brani quello che stava succedendo intorno a noi, da un punto di vista sociale, politico, una storia di quartiere come una storia universale. E questo, insomma, ci ha felicitamente costretti a parlare di tante cose. E appunto era per questo, non ci interessava fare un biopic di un gruppo musicale, ma ci piaceva raccontare come la musica, appunto la musica di Assalti, può trasformare anche una società, perché loro sono anche degli attivisti che prendono parte a molte iniziative, e a raccontarci quello che ci sta succedendo intorno. Oltre a loro, quali sono stati i tuoi interlocutori e interlocutrici? Non avevamo intenzione di mettere tantissime interviste, perché la voce principale è quella di Militantà, e avendo il protagonista di tutte le vicende a disposizione, insomma, non ci siamo sentiti di mettere tantissime voci. Abbiamo messo delle voci che apparentemente non c'entrano nulla con il rap e con la musica, ma che possono raccontare bene degli aspetti dell'arte. Per esempio abbiamo Elio Germano, che è un attore, ma sappiamo quanto sia presente, insomma, nelle situazioni attuali, no? Tra l'altro anche lui ha un gruppo rap, ma non parla di rap, parla di come un artista dovrebbe comportarsi di fronte alla realtà che cambia. Abbiamo Caparezza, che sia un musicista, sì, ha dei legami col rap, però è più coinvolto nella vicenda personale di Luca, che appunto vive anche Caparezza, che è quella di vivere con l'acufene. Abbiamo Gino Castaldo, che è un giornalista musicale. Abbiamo ovviamente S1, che è stato il producer di Banditi. Abbiamo Carlo Martelli, che è un manager discografico, un producer discografico che ha portato Assalti a fare l'unico disco in major, che appunto è Banditi. Insomma, sono delle partecipazioni valutate in maniera molto oculata, ecco. Cosa ti ha impressionato maggiormente di questa parabola? La cosa di cui abbiamo sempre discusso e che credo che poi abbia convinto anche i Manetti, Bros, Pier Giorgio Bellocchio, tutta la Mompra, cioè tutte le persone che si sono strette poi attorno a questo progetto e che hanno reso possibile che ne venissimo fuori, insomma, in maniera più efficace possibile. Poi apro una parentesi, insomma, per i Manetti avevamo già collaborato con Assalti per la trilogia dei videoclip di Banditi, per cui erano proprio dentro a questa vicenda di Assalti. La cosa che ci colpisce sempre è che oggi è sempre più raro trovare nella musica, come nello spettacolo, delle realtà come Assalti Puntali, cioè che cantano quello che vivono e vivono quello che cantano. Cioè questo binomio, anche soprattutto nel rap, è sempre più difficile trovarlo. Il rap è sempre stata una musica, fin dagli albori, fin dal Bronx, una musica che deve parlare di quello che succede, deve raccontare quello che succede, e secondo me negli ultimi anni anche nel rap italiano un po' si è persa questa cosa, almeno nel mainstream, e invece Assalti lo fanno ancora, ed è questo che probabilmente colpisce tutti, anche uno spettatore di questa vicenda. Che percorso farà ora il documentario? È stato presentato in anteprima al Biography Festival di Bologna venerdì scorso, e adesso il 20 giugno, grazie a Monpracem, inizia il suo percorso nelle sale. Quindi a Roma dal 20 giugno al 26 lo potrete vedere al Cinema Aquila, e poi ci saranno una serie di repliche in giro per l'Italia, quindi stanno già definendo un calendario proiezioni per riuscire a vederlo in sala, perché essendo, va bene, un documentario musicale, ma proprio anche il lavoro che è stato fatto sul sonoro merita di essere gustato in una sala cinematografica, quindi ad alto volume, in una situazione immersiva. Quindi la priorità di Monpracem adesso è di portarlo nelle sale. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Adesso è molto attiva la pagina dei social per seguire quello che succederà al documentario, quindi su Instagram potete seguirlo proprio nella pagina del documentario, che è Una vita all'assalto, anche alla pagina di Monpracem, che è la produzione e la distribuzione del documentario, e con i relativi Facebook. Insomma, siccome gli aggiornamenti ci fa molto piacere, tra l'altro al Biografilm abbiamo portato a casa il pieno del pubblico e iniziano ad arrivare anche delle proposte di proiezioni dove non avevamo neanche pensato di andare, ma che ci fa molto molto piacere, quindi è in fase tutto di aggiornamento e la cosa migliore è seguirci sui social. Il documentario Una vita all'assalto al cinema da giovedì 20 giugno 2024, un saluto e un ringraziamento al coregista Paolo Fazzini. A presto! Grazie a voi, grazie a voi. Conan Rita Ciccone, regista del film Gli Immortali, al cinema da giovedì 20 giugno 2024, ben trovata. Ciao, ciao, grazie di avermi invitato. Cosa hai raccontato in questo lavoro? Questo è un lavoro abbastanza complesso, è un film che hanno definito un po' sperimentale perché dentro c'è una realizzazione, uno spettacolo teatrale, c'è una versione di teatro Dante ispirata alle Baccanti di Euripide. La protagonista, Chiara, che è una mia sorta di alter ego, è un tecnico delle luci che sta mettendo in scena questo spettacolo. Quando arriva il suo giovane padre hippie idealista, che lei appunto ha sempre visto poco nella vita perché ha sempre ritenuto che amasse più gli ideali, appunto salvare l'idea di salvare il mondo che stare con la sua famiglia, arriva dicendole di essere appunto da un brutto male, e così lei deve passare questi ultimi giorni della vita di suo padre mentre mette in scena questo spettacolo che entra sempre più nel suo inconscio e nella storia, in cui appunto si parla del, appunto, alla fine, al perdere qualcuno che si ama, il tempo che tutto trangugia e divora, soprattutto quando non credi niente, quando non sei credente. Euripide appunto era noto per festeggiare gli dèi e chi credeva negli dèi, scrisse questo testo come ultimo testo andato in scena postumo, e nel momento, insomma, ho capito che la fine si avvicinava, ho cominciato a farsi delle domande sull'esistenza o meno degli dèi, perché giustamente non abbiamo paura, ovviamente ci poniamo questi tipi di problemi. Quindi Chiara sta vivendo esattamente questo universale momento, cioè l'idea dell'accettazione del tempo e dell'incontrollabilità della vita, insomma, della vita che non ci appartiene. Dove ha origine tutto? Io ho scritto questa sceneggiatura per una promessa che ho fatto a mio padre, perché la storia è appunto autobiografica. In quegli ultimi giorni in ospedale lui mi fece promettere di scriverci un film, perché c'è dentro in tutta questa storia la tematica mia preferita, che è quella del pregiudizio, e mi ha fatto promettere anche, però questa volta evita che la tua umiltà ti faccia ombra, e credo che in questo caso non ho mantenuto la promessa. E questo film, per realizzarlo, c'era il cinema, aveva amato il progetto, lo voleva realizzare nel 2005. Insomma, io non mi sentivo ancora matura, erano troppo vicini gli eventi reali, no? Umanamente pensavo di dover fare più esperienza, professionalmente volevo essere più ferrata. Ho deciso di cambiare progetto, ho fatto un altro film, il mio terzo film che si chiamava Il prossimo tuo, poi ho fatto ancora un altro film che si chiamava Gli anni infiniti dallo spazio, e poi è venuto fuori questo film perché una persona a me vicina in Rai Cinema mi ha detto: ma perché adesso non affronti quel film bellissimo sul padre? E allora ho capito, da una serie di segnali di realismo magico anche nella mia vita, che era arrivato il momento di parlare di questo progetto che, paradossalmente, visto oggi, sembra quasi un instant movie. Io solo questo, quindi evidentemente era il tempo giusto per fare questo film. Come hai messo in piedi il progetto, dalla scrittura alla scelta degli interpreti? Nel momento in cui abbiamo cercato questa proposta, perché è partita al contrario, non l'ho proposto io a Rai Cinema, Vision eccetera, ma ci sono stati questi strani fattori, per esempio se il caso esiste, per cui mi hanno parlato sia in Rai Cinema e poi in Vision di questo progetto, perché era arrivato in Vision Massimiliano Speche, conoscevo quando lavorava Rai Cinema, quindi insomma questa cosa su cui non si tedio, non perdiamo tempo. Io ho subito pensato a una serie di attori. David Coco è stato proprio il primo pensiero che ci ho avuto rispetto al ruolo di Vittorio, perché abbiamo già lavorato insieme ai tempi dell'amore di Maria, di cui l'immortale è quasi un sequel, e lo conosco bene, l'ho visto a teatro eccetera, siamo amici. E poi Gelsomina Pascucci, la protagonista, è stato un caso strano, perché io l'avevo vista casualmente in un cortometraggio realizzato come cortometraggio di studio all'interno della scuola Volontè. Mi sono innamorata di lei, della sua bravura, della sua faccia, quindi non ho voluto neanche andare avanti con i casting, ho voluto incontrare lei, abbiamo fatto mezzo provino e ho capito che era lei. E poi io, come in tutti i miei film, dovevo coinvolgere la Finlandia, perché non posso esimermi, anche per l'autobiografia della storia. Quindi ci sono due attrici finlandesi, Pirjo Lonka, che è molto nota lì, insomma, in Finlandia, poi una ragazza cuginotta, è una mia amica da sempre, quando eravamo piccole, e lei, proprio lei mi ha chiesto di fare un cameo nel film, perché negli eventi reali che racconto nel film lei mi è stata molto vicina, mi è stata di molto aiuto. E poi ci sono le musiche dei Boland, che io adoravo dai tempi di X-Factor, grazie a mio marito che ha curato il montaggio in questo caso, sì, perché lo facciamo un po' tutto insieme. Io ho scritto una sceneggiatura con un film suo come regista, abbiamo scritto insieme un suo documentario, tra l'altro ci siamo servette di montatore, ma anche ha avuto lui l'idea, perché continuavo a parlare del fatto che usavo nello spettacolo musiche tipo Boland, essendo il mio un film low budget pensavo fosse impossibile avere veramente loro. Invece Lorenzo, mio marito, li ha contattati, ha contattato il manager, loro super entusiasti, hanno fatto una colonna sonora bellissima per il film, è proprio lavorata sulle immagini, lavorata sulle coreografie praticamente al contrario, e quindi sono molto molto fiera del mio cast e dei miei collaboratori. Ho Leone Orfeo che ha fatto una coreografia veramente strepitosa. Io appunto faccio sempre dei film low budget in cui una delle grandi libertà artistiche è anche non sentirsi obbligati, né nessuno, né la produzione, che Simone Gattoni e Francesco Torelli, i produttori, né tantomeno Vision o Europictus, che è entrata poi in seconda battuta a co-distribuire il film, mi hanno mai rotto le scatole sul concetto del cartellone, per cui ho preso degli attori molto bravi, che poi spero che abbiano grande successo, però appunto Davide non lavora tantissimo a teatro, adesso ho fatto il film di Aurelio Grimaldi, Borsellino, quello che perde la Borsellino, sono preso Borsellino a teatro, un pezzo di Claudio Fava. Anche Gelsomina, insomma, sono anche attori che hanno delle vite molto più ampie dell'idea di calpestare soltanto il terreno del blockbuster, diciamo così. Alla fine di questo percorso, qual è la tua riflessione sulla fine? Io sono mezza finlandese e mezza siciliana, quindi ti puoi immaginare che da quando sono nata, da quando ero piccola, che io rifletto sul fatto che finiremo, e questa mia radice tiburo-finnica, quindi questo spleen nordico unito alla radice greca che c'è nella cultura siciliana, mi hanno sempre reso consapevole del fatto che la nostra finitezza fa sì che dovremmo cercare di evitare la vita, di tanto essere ridicoli o pensare appunto di essere eterni e di essere immortali con la nostra identità, col nostro corpo eccetera, ma proprio per questo dobbiamo cercare di viverci la vita con la maggiore felicità e contentezza possibile, ma anche pensare di essere più possibile delle brave persone, perché tanto da qui a 100 anni non saremo che un ritratto su una parete forte di qualche nostro bisnipote. Quindi questa consapevolezza, devo dire la verità, ce l'ho sempre avuta. Per me il problema non è mai stata la questione della mia finitezza, quanto l'angoscia dell'elaborazione del lutto. Quindi il titolo nasce dal fatto che io da bambina, quando ho scoperto che si muore, ero molto piccola, a un certo punto ho capito che si intende che si muore, da 5 anni, avendo la mia bisnonna centenaria accanto, vedendo una sua foto da giovane, ha avuto una sorta di crash emotivo. E a un certo punto mio padre, vedendomi piangere letteralmente, perché dicevo giuratemi che non morirete mai, non posso pensare mamma, papà, Elena, sorella, tutti i cani, se morite, i nonni, no, non dovete morire, lui mi disse non ti preoccupare perché noi siamo di un'altra tempa, noi siamo extraterrestri, noi non moriremo mai. Non parliamo della pedagogia di questa scelta, questa pedagogia di questa scelta di mio padre, però effettivamente una parte del mio inconscio si era pacata, perché sai che i genitori hanno sempre ragione, cosa dico, pensando, vabbè, dato i genitori non vogliono mai, anche perché i miei genitori hanno 20 anni più di me, mi hanno avuto giovanissimi, per cui tu non pensi che li perderai giovani, capito? E dunque, se per rispondere alla domanda, diciamo, l'idea della finitezza non l'ho cambiata, della mia finitezza, della finitezza dell'umanità. L'elaborazione del lutto non è avvenuta perché il cinema è terapeutico, non per chi lo fa, ma per chi lo vede. Questo io lo dico sempre anche alle persone giovani: se pensi di fare terapia col cinema, scordatelo, perché apri tutte le angosce, rimangono tutte lì. Il cinema è terapeutico per chi lo vede, per lo spettatore. Noi cerchiamo di rendere universali le cose che viviamo, perché come spettatore si possa vivere la catarsi. Io come spettatrice o come di cinema, teatro o come lettrice, la catarsi sulla mia incapacità di elaborare il lutto ancora non l'ho trovata. Io ancora sto cercando, cioè credo che non mi abbiano proprio montato nel cervello l'elaborazione del lutto come principio. Cioè, è morto il cane, che poi non si fa, ero Red Butler quando si è morta la vita in Via Corvento, cioè ancora oggi ho le ceneri del cane qui davanti a me mentre ti parlo, con la fotina e con tutti gli ex voto, perché proprio non accetto che Sara non ci sia più, capito? Positivo. Quindi non ho migliorato la situazione della mia elaborazione del lutto rispetto alla finitezza, ho risolto il problema con me stessa quando ero piccola, e poi sai, questa filosofia, eccetera, insomma, mi sono fatta una mia idea che non è cambiata, diciamo, questo film. Che distribuzione sarà? Noi, uscendo di 20 giugno, facciamo parte di quella squadra di eroi che stanno provando a uscire, allungare la stagione cinematografica, perché ci sono state una serie di circostanze per cui da sempre Via di Roma, però scivola che ti scivola, insomma, poi alla fine ci hanno proposto questa uscita estiva con gli europei, il calcio, le olimpiadi che partono e l'estate, quindi è molto di sfida e veramente chi ama il cinema in maniera religiosa e viscerale va a vedere il film in questo periodo, per cui c'è la sfida anche lo spettatore, io vado a vedere il film anche l'estate, anche perché sto facendo il caldo appunto tra l'aria condizionata o le arene, bene, proprio a Roma siamo in due sale, cioè all'Eden e alle Urcine, e poi io adesso questo weekend andrò a fare un giro in Sicilia, perché la distribuzione appunto mi manda a presentare il film, andiamo a Siracusa, a Catania, a Messina, a Palermo, così praticamente in due giorni sono ammassata io con gli attori protagonisti, mio marito. Il film degli immortali al cinema da giovedì 20 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Annerita Ciccone. A presto! Grazie a te, grazie a voi, a presto! Con Elisabetta Pieretto di Indigo Film, che distribuisce il film La Treccia di Letizia Colombani al cinema da giovedì 20 giugno 2024. Ben trovata! Grazie, grazie a voi. Cos'è questo film? Cosa racconta? Questo film, che peraltro è tratto dall'omonimo libro La Treccia, edito da casa editrice Nord, che è stato un vero e proprio caso editoriale in Francia, ma in verità anche in Italia, e alla fine la scrittrice stessa, che è Letizia Colombani, aveva deciso di vendere i diritti, ma poi alla fine non ha trovato nessun progetto che la soddisfacesse, ad un certo punto ha detto, sai che c'è? Lo faccio io. E quindi ha esordito alla regia con questo film, che ha scritto e ha diretto, è già uscito in Francia, e in Francia ha avuto un enorme successo, più di 1 milione di spettatori, e noi, come Indigo Film, che siamo coproduttori per la parte italiana, abbiamo deciso di distribuirlo in Italia. È una storia molto toccante, molto coinvolgente, con 3 protagoniste femminili molto brave: Kim Raver, che l'abbiamo già conosciuta in Grey's Anatomy, Fotini Peluso, che è una delle attrici più promettenti della scena italiana contemporanea, e Mia Meltzer. Ognuna di queste protagoniste ci porta dentro ad una storia molto personale che si intreccerà con le altre due, e da cui appunto il titolo La Treccia. Il tema trattato è molto importante, molto attuale, insomma. Le seguiamo dall'inizio alla fine, vedendo queste 3 figure femminili molto forti, portate ad accettare delle sfide importanti nella vita, ad affrontarle con estremo coraggio. Rispetto alla pagina scritta, qual è stato il lavoro di trasposizione? Questo l'abbiamo chiesto direttamente a Letizia, ha deciso di essere molto fedele. Tra l'altro, non appena noi abbiamo rilasciato e rilanciato il trailer in Italia, tutta la base dei lettori ha risposto subito, proprio dicendo non vediamo l'ora che esca, lo vogliamo andare a vedere, chissà come sarà, speriamo che sia corrispondente e rispettoso del libro. Confermo. avendo letto il libro e avendo visto il film, lo è. La cosa è stata riconosciuta anche dai critici in Francia e dal pubblico francese, ed è anche il motivo per cui è stato premiato, perché ci sono delle volte in cui un libro funziona e altrettanto il suo adattamento cinematografico. Quali sono gli elementi centrali di questa storia? Secondo me prima di tutto l'emozione, perché sempre di più ci pare di vedere, da questo punto di vista che abbiamo privilegiato di Addetti ai Lavori, che il pubblico sia tornato al cinema quest'anno amando le storie forti, le storie importanti, le storie. La Treccia ce l'ha, anzi ne ha tre che si intrecciano, sono molto emotive, sono molto dirette, e secondo me questo è il punto di forza del film. Sicuramente si entra in un modo e si esce dalla sala cambiati ed emozionati. Cosa ti ha convinto di questa regia? Il fatto di aver messo in scena tre ruoli femminili, protagonisti, forti, indipendenti, molto diversi tra loro, perché le tre storie sono ambientate una in India con Mia Meltzer, una in Canada con Kim Rever e una in Puglia con Fottini e Peluso, quindi sono tre location molto diverse, e va da sé che le tre protagoniste si trovano ad affrontare tre sfide molto diverse, anche legate alla cultura di appartenenza e al paese di appartenenza. E vedere tutte e tre queste rappresentazioni, dove c'è un soggetto femminile che agisce anziché essere semplicemente o l'oggetto di desiderio o qualche cosa di relativamente passivo funzionale, devo dire che è una cosa molto forte, di cui credo sia desiderio adesso. Ci dicevi della Francia, qual è stato il suo percorso tra festival e sale internazionali? Il film è uscito direttamente in Francia, hanno deciso così perché quando un film è tratto da un libro che ha venduto 5 milioni di copie, io credo che non abbia bisogno di essere qualificato, tra virgolette, ad un festival. È uscito in sala, il mercato francese è un mercato da un certo punto di vista di palato fine, ed è stato premiato perché, appunto, come dicevo prima, ha fatto credo oltre 1.200.000 spettatori. Ci ha avuto un ottimo passaparola, è rimasto molto in sala, e noi usciamo in un periodo un po' differente rispetto a quello francese, che se non ricordo male era novembre. Però pensiamo che possa avere un suo percorso anche qui, a partire dai lettori che hanno amato il libro. Poi vabbè, il fatto che usciamo in contemporanea con la seconda partita dell'Italia, non so se prenderla bene o male, però insomma è una degna alternativa. Poi casomai giovedì gioca l'Italia, da venerdì fin continua a stare in sala, sarà in oltre 50 sale in tutta Italia, quindi siamo riusciti ad avere un posizionamento nazionale importante. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere in quale sale vederlo? C'è una pagina dedicata al film che è latrecciafilm.com, altrimenti anche su MyMovies, che è il nostro partner per l'uscita, si trovano tutti i riferimenti di dove in programmazione, e ovviamente anche le pagine social Indigo Film, sia Instagram che Facebook. Il film La Treccia di Letizia Colombani al cinema da giovedì 20 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento di Elisabetta Pieretto di Indigo Film, che lo distribuisce. A presto! Grazie, viva il cinema, viva il cinema al cinema. E La Treccia rientra nella campagna Cinema Revolution in quanto film italiano e anche europeo. Questo significa ingressi a 3,50 euro. Con Cesare Petrillo, curatore della rassegna L'Eterna Illusione a Roma, Cinema Quattro Fontane, dal 24 settembre al 30 giugno 2024. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Aggiungerei che la rassegna è di domenica mattina alle ore 11. È una matinée domenicale, che è stato uno dei pezzi forti del Cinema Quattro Fontane in questi anni, e quindi continua questo appuntamento. Come nasce questa rassegna? La rassegna nasce da una mia osservazione nelle precedenti stagioni al Quattro Fontane con il XX secolo, che il pubblico ha un grande piacere a riscoprire non solo i classici del passato, perché sono sempre stati dei classici, ma ha un piacere particolare nei classici più vecchi, parlo degli anni 30, 40 e 50, e soprattutto quando il film di domenica mattina è più leggero dei film drammatici, per cui la scelta è stata: facciamo 40 commedie veramente classiche, sono 40 commedie tra il 1932 e il 1949, gli anni più belli della commedia americana, e perché appunto c'è un pubblico che

che voleva un po' raccontare a 50 anni della pubblicazione del romanzo La Storia questo scandalo di fatto che accadde quando Elsa Morante pubblicò appunto questo romanzo. Ma successe un polverone di fatto, magari non si sa, ma in realtà insomma in molti si schierarono contro di lei. E quindi abbiamo deciso insomma di raccontarlo in modo più fedele possibile alle pagine del romanzo e anche a quello che era poi quel periodo storico, partendo però da una genesi che abbiamo rintracciato. Come lo hai articolato? La cosa più bella, di fatto più interessante che ci è successa è che cercando abbiamo capito che questo romanzo di fatto aveva una genesi e questa genesi partiva da Fondi, che è un paesino a 30 km da Roma, dove nel 43, quando Roma appunto stava per essere occupata, Elsa Morante si rifugiò insieme ad Alberto Moravia e a Fondi loro furono coperti, furono nascosti e furono protetti, nessuno sapeva chi fossero, ma i contadini di una località in montagna sopra Fondi, che si chiama località Sant'Agata, li accolsero e divisero con loro il poco cibo che c'era, il micro letto, e li protettero per circa 6 mesi. In quel periodo, in quei 9 mesi, Elsa Morante di fatto vide tutto quello che era l'orrore della guerra, perché c'era proprio la linea dei bombardamenti e quindi vide la morte, vide la fame. E da lì è una suggestione, secondo noi, prese i primi appunti per la storia. Questo ci è stato poi confermato dalle persone che li accorsero, perché siamo riusciti a rintracciare 2 persone che erano lì mentre Elsa Morante e Alberto Moravia si rifugiavano. Siamo partiti da lì e poi abbiamo innovato il racconto grazie anche a questo posto del film di Comincini, film La Storia, lo sceneggiato, e ha delle pagine più rappresentative ovviamente del libro, per esempio il combattimento di Sanremo, fino a poi arrivare, passando per lo scandalo che accadde quando Elsa Morante pubblicò questo libro, lei fu attaccata ferocemente, e fino a poi alla morte dell'autrice. Su cosa vi premeva mettere l'accento? A me personalmente quello che interessava soprattutto era questa figura di donna e di autrice o di autore, scrittore, come lei amava farsi chiamare, completamente anarchica, completamente fuori da qualunque tipo di schema, con un caratteraccio poco amata dagli ambienti letterari, nonostante si fosse per anni poi si separarono, la moglie di Moravia, e quindi capire come questa donna di fatto scelse in un momento di avanguardia di fatto letteraria, di scrivere un romanzo raccontando la Seconda Guerra Mondiale in uno stile effettivamente classico, non certo lei prima ancora aveva scritto per esempio un libro straordinario del mondo salvato dai ragazzini, invece torna proprio allo stile classico, rompendo tutti gli schemi che c'erano in quel momento, addirittura alternando le pagine del racconto con la cronologia dei fatti storici, quindi di fatto un romanzone popolare che poi non è successo. Ecco, quello che mi ha colpito è che lei fosse totalmente indifferente alla moda, se vogliamo, letteraria dell'epoca, e mentre invece lei diceva: io ho scritto un romanzo per tutti, e anche la scelta editoriale fatta da Einaudi in questa direzione, e le critiche andarono proprio a colpire lì. Oltre al percorso televisivo, dove sarà possibile vederlo? Adesso sì, è stato presentato come evento speciale al Biografilm Festival di Bologna. Poi ci sarà appunto la messa in onda il 17 giugno, la replica, la disponibilità per i piedi a partire dal 18, e poi comincerà, immagino, un percorso di festival laddove insomma sarà possibile poi andare. A presto! Grazie a voi, a presto! La regista Silvia Luzzi sul suo documentario La Storia, il romanzo dello scandalo, disponibile su RaiPlay. Con Pedro Armocida, direttore artistico della 60ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Pesaro Film Festival dal 14 al 22 giugno 2024. Ben trovato. Ciao Federico, buongiorno a tutti. 60ª edizione, numeri grossi. Sì, 60 edizioni nell'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, e quindi ecco un anno, come dire, un po' particolare. Proprio oggi ci pensavo effettivamente, che ne so, per un direttore di festival dei traguardi del genere, no? Dirigere un festival nella 60ª edizione con una capitale della cultura, ecco, è una cosa abbastanza unica. Mi sento onorato e spero appunto di aver costruito anche un programma che a queste attese risponde. Per chi non lo conoscesse, quali sono le sue peculiarità? 59 anni, l'anno prossimo siamo ancora in 60 come reclame, 60 anni, è un festival che ha nel suo nome unico il suo destino, in qualche modo il suo DNA, che è il nuovo cinema. Naturalmente parliamo del 65, di quegli anni in cui nel decennio precedente si erano affermate le nouvelle vague ed era un'ondata storica di cinema nuovo. Oggi non esiste più chiaramente quel tipo di movimenti e noi indaghiamo, cerchiamo questo nuovo cinema, soprattutto quanto riguarda anche il linguaggio cinematografico nuovo, più arrischiato, più strano, usiamo anche questa parola. Quindi è un concorso che si chiama Pesaro Nuovo Cinema, aperto a tutti i formati, a tutte le durate, a tutti i registi, senza nessun tipo di limitazione, per cui questa selezione, insieme ai tre giurati che quest'anno creano un ponte col passato, che sono Giulio Bressane, regista portoghese che porterà a Pesaro per un'opera sua di montaggio su tutto il cinema brasiliano in anteprima mondiale, Luis Mignarro, produttore spagnolo che porterà anche lui un suo film, e l'attrice Miriam Mezieres, musa di Alain Tanner, alla quale dedichiamo appunto anche a lei un film di Tanner. Nel complesso quante sono le opere in mostra? Non le ho ancora contate, è arrivato il catalogo generale che è arrivato a 270 pagine, perché appunto noi abbiamo anche questa deriva un po' maniacale per l'editoria, per i libri, e quindi è un catalogo che ha sì casting credits dei film, ma anche interviste, saggi, secondo me più di un centinaio, ma forse anche di più. Grazie a te poi le conterò, perché può essere un dato utile. Com'è strutturata questa edizione? Il festival si svolge in un teatro storico, un cinema storico di Pesaro che si chiama Teatro Sperimentale. Quindi ecco, all'interno del Teatro Sperimentale, nelle due sale, c'è la parte anche più appunto sperimentale, il concorso Nuovo Cinema, i videoclip, il focus su una regista statunitense, Bridget McCaffrey, su Arcangelo Mazzoleni, un omaggio con due film ad Adriano Aprà, che è stato storico direttore del festival e colonna portante di Pesaro, che è scomparso lo scorso aprile, i video in Super 8, i corti d'autore d'animazione con un omaggio a Toccafondo, e da contraltare la sera anche in piazza, che è una sala arena più aperta appunto al pubblico, alla Piazza del Popolo, una serie di iniziative, di incontri con autori. Iniziamo con Sergio Castellitto per i 20 anni di Non ti muovere, incontreremo Ficarra e Picone a cui dedichiamo un volume in piazza, proporremo l'anteprima italiana Maria Montessori, il film con Jasmine Trinca in cui interpreta la pedagoga peraltro marchigiana, Valentina Lodovini ricorderemo Carlo Mazzacurati, 10 anni dalla scomparsa, Enzo Dalò, il cinema d'animazione, perché abbiamo anche una sezione per bambini, e finiamo poi con Luca Guadagnino a cui daremo il premio Pesaro Nuovo Cinema 60 e poi metteremo Challengers. Anche lui avrà una monografia di queste Marsilio col dorso verde che connotano il festival, dedicata a lui, e poi un'altra monografia oltre a quella di Ficarra e Picone sarà per Franco Maresco, il grande autore, anche lui palermitano. Il titolo del suo libro che ha curato Fulvio Baglieri mi sembra molto interessante, perché si chiama Ad Malora, opere, cinema e film di Franco Maresco. Ecco, in questo titolo c'è molto, quasi tutto il cinema di Franco Maresco. Anche grazie alla tua cura, che direzione sta prendendo il festival in questi anni? Ho cercato di tenere insieme, perché chiaramente sono aperto a tutte le critiche, quest'anima del festival è più sperimentale, è nuovo cinema con una parte un pochino più popolare. Ecco, questo tentativo mi è stato anche un po' criticato negli anni, per esempio da Adriana Pra, e ho cercato anche forse di migliorare, tant'è che fortunatamente l'anno scorso, ci tenevo molto naturalmente al parere di Adriana Pra, anche pubblicamente ha detto che ero riuscito magicamente, non so come, a tenere in piedi questi due aspetti, popolare e cinefilo in qualche modo. E quindi ecco, spero che questo sia un viatico appunto per anche in futuro, ecco, si pensi alla mia direzione, che sia riuscita, ecco, a tenere insieme queste due cose che in effetti sono difficili poi da tenere insieme. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.pesarofilmfest.it e i social collegati. 60ª edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Pesaro Film Festival dal 14 al 22 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. A presto! Grazie, a presto! con Massimiliano Mazzotta, direttore artistico dell'undicesima edizione di Life After Oil, in Sardegna, a Villanova Forru, dal 18 al 22 giugno 2024. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutti! Raccontiamo cos'è questo festival. Questo festival sta diventando sempre più un incontro di registi, produttori, attivisti. Noi trattiamo tematiche ambientali e di diritti umani. Quest'anno ci sono 37 film in concorso, 5 incontri, altre storie, una botte che noi abbiamo fatto da quando siamo qua a Villanova Forru. Sono 5 incontri, festival di cinema con 4 direttori di festival. Poi ci sarà Educazione al suolo, che è un progetto europeo, dove ci saranno 2 professori dell'Università di Sassari, Cinema e Disabilità, che dallo scorso anno lo dirige Francesco Stefanitti, e quest'anno avremo un musicista, Giancarlo Morranca, e Mirko Mencacci, che è un musicista che ha fatto musiche anche per diversi registi, tra cui Antonioni. Poi ci sono 2 incontri al mattino, che sono Sonori e Tecnologia, sono 2 ore di masterclass con Max Costa, che è sound designer, oltre che aver fatto le prime musiche di Elio Lettorese e di tanti altri artisti di un certo calibro. E poi c'è la presentazione del libro di Laura Capon, Patrick Zaki, una storia egiziana, e poi 2 spettacoli dal vivo, che sono uno spettacolo comico, perché per fortuna o per forza di cose non potevamo fare diversamente, c'è anche la partita Italia-Spagna, in un posto dove noi facciamo il festival in piazza, e quindi proietteremo anche la partita, alternato anche a cortometraggi durante l'intervallo, e poi alla fine della partita verranno proiettati altri cortometraggi, proprio per attirare quanto più pubblico possibile, anche quello che non conosce il festival e verrà solo per la partita. Com'è stata la scelta dei titoli? Sono arrivati 805 film, e quindi per sceglierne 37 sicuramente noi diamo prerogativa a chi fa l'opera prima, originalità e tema che ha un livello internazionale e non provinciale. Quindi lo dico perché ci piacerebbe molto inserire magari anche una sezione dedicata più alla Sardegna o più all'Italia, ma purtroppo o per fortuna di pomeriggio non possiamo proiettare perché fa un caldo, uno non si chiude al cinema a giugno, e quindi è una questione proprio pratica di ore e di programmazione. Proprio a questo proposito, come è strutturato il festival rispetto ai luoghi e agli orari? Le proiezioni vengono fatte soltanto la sera. Noi abbiamo 5 sezioni del festival, che sono lungometraggi, premio Giuseppe Ferrara, ambiente cortometraggi, diritti umani cortometraggi, animazioni, e poi la sezione World Panorama a tema libero, solo loro distinzione. Quest'anno chiuderemo anche con un evento speciale di un film palestinese in collaborazione con l'Art Film Festival di Cagliari, che è un festival arabo-palestinese che esiste da più di 20 anni, assieme all'Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, proprio perché come festival non possiamo far finta di niente in generale, perché basta accendere TV o guardare qualsiasi giornale dove c'è una guerra da una parte, una guerra dall'altra, e ci sono conflitti in continuazione, e di alcune guerre non si parla. Per i titoli posso dirti che abbiamo Bangarang di Giulio Mastromauro, che tratta la questione di Taranto, un'inchiesta sui semiconduttori, visto che ne si parla, è un'inchiesta girata da Nicolas Vescovacci, poi Fukushima, The Hidden Side of the Story, proprio l'altra faccia della storia di Fukushima, ma non solo del nucleare in generale, e poi abbiamo un'opera prima di Deep Trekking, perché in Patagonia, esattamente a Vaca Muerta, stanno trivellando tutte le multinazionali, non argentine, nemmeno sudamericane, occidentali, perché tanto la questione è sempre quella, adesso ormai, Oriente-Occidente, diciamo, l'altra parte con l'Occidente. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Sì, saranno presenti una decina di registi, più tutti i giurati e tutti gli eventi collaterali che abbiamo, e quindi siamo contenti, anche perché il territorio dove facciamo il festival ormai collaborano bene o male quasi tutti, e sicuramente ringraziare il comune di Villanova Forru, la Proloco di Villanova Forru e tutti quelli che ci hanno dato una mano quest'anno anche a livello economico, che sono appunto Regione Sardegna, Punta Nanoa, che è l'unico albergo che c'è qui, ITE, Medici per l'Ambiente, Medicina Democratica, Fondazione di Sardegna, e poi i patrocini del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quello per le disabilità, e poi tutta una serie di altri collaborazioni che abbiamo da diversi anni con Italia Nostra, WWF, Emergency, e poi c'è anche un nuraghe qui, il parco di Genna Maria, che è uno dei nuraghi di quella zona di Barucchi, dove c'è uno dei più grandi nuraghi del mondo, e siamo uno più piccolino, è una zona archeologica. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? La pagina Facebook Life After Oil oppure lifeafteroil.it.org.co.uk. Nel sito si trova tutto, anche il track list per giornalisti. Undicesima edizione del Festival Life After Oil Villanova Forru dal 18 al 22 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Massimiliano Mazzotta. Un abbraccio, grazie a presto. A voi. Un abbraccio, a presto, grazie. Con Marco Visalberghi di Doc Lab, che produce il documentario Stray Bodies, Corpi Erranti, di Elina Psiku, al cinema da martedì 11 giugno 2024. Ben trovato. Ben trovati a voi e grazie per l'invito. Di cosa racconta questo lavoro? Questo è un lavoro che nasce diversi anni fa, che poi ha avuto varie peripezie dovute anche al Covid, che hanno reso tutto complicato, ma racconta una cosa molto semplice. Racconta la vita di quei cittadini europei che non vedono riconosciuti nel proprio paese alcuni diritti fondamentali della persona e sono costretti ad emigrare nei paesi vicini per vederli riconosciuti, una specie di corpi erranti in cerca di diritti, a noi piace dire definirlo. Come nasce questo lavoro? Questo lavoro nasce dall'incontro con la regista e con ben altre quattro case di produzione, una svizzera, una bulgara, una greca e la nostra. Abbiamo cominciato a ragionare di questi argomenti e ci siamo resi conto di quanto importante sia continuare a tenere alta la guardia su dei diritti che piano piano vengono erosi. Per una persona come me che ha partecipato alle battaglie del divorzio e poi a quella dell'aborto e questo senso che ci fosse una società civile che riusciva pian piano a vedere garantiti dei diritti, oggi come oggi c'è una sensazione esattamente il contrario, cioè di diritti che vengono erosi poco per volta, messi in una situazione difficile in cui in realtà vengono erosi solo per la povera gente, perché la gente ricca allora facevano i divorzi attraverso la sacra orta, oggi questi problemi si risolvono con il turismo sanitario. Basta essere ricchi, uno va nel paese accanto, spende un po' di soldi e li risolve. Ma questo è proprio il contrario della democrazia e del senso di essere cittadini di una comunità che dovrebbe garantire questo. Come si sono svolti i lavori di preparazione al documentario e poi per filmare? Ciascuno di questi quattro paesi ha svolto un'intensa ricerca al proprio interno. Ci siamo scambiati i risultati ottenuti, ne abbiamo ragionato con Elina. Elina ha incontrato le varie persone e poi pian piano abbiamo cominciato a girare. Devo dire che è stata una di quelle cose in cui siamo molto contenti di questa coproduzione, perché nonostante tutte le difficoltà ne siamo usciti contenti del risultato e soprattutto contenti della collaborazione in itinere. Com'è strutturato il documentario? Il documentario è strutturato in una serie di storie, per cui partiamo con una storia di una ragazza che da Malta, paese dove assolutamente non è possibile abortire, anzi tutte le persone con cui abbiamo parlato e che hanno avuto questo problema erano terrorizzate anche solo di raccontare storie di 15, 20, 30 anni fa. Sono costrette, quelle che con grande forza di volontà decidono comunque di farlo, ad andare in Sicilia mettendo in scena una bellissima sceneggiata per cui vanno in Sicilia raccontando a tutti che vanno a fare spese. In realtà ci sono delle organizzazioni che le vanno a prendere al traghetto, che le portano a fare shopping in modo che possano tornare con i bagagli a casa e dopo lo shopping fanno l'aborto e tornano a casa loro. Tra l'altro la ragazza che interpreta questa persona maltese non è la persona vera, perché il terrore era tanta che è stata l'unica sequenza che abbiamo in qualche modo ricostruita con una volontaria che crede moltissimo in questo tipo di messaggio, che era estremamente motivata e che ha recitato, per così dire, per noi questo ruolo. Tutti gli altri invece sono persone vere che l'hanno vissuto sulla loro vita personale e ci raccontano le loro storie. Quante sono state le persone interlocutrici? Le persone con cui siamo entrati in contatto, varie decine e decine. Le persone poi che sono rimaste nel film, cioè quelle che poi siamo riusciti effettivamente a seguire, sono 6. Che panorama ne esce? Ne esce un panorama estremamente interessante, a cui noi teniamo molto, perché non è un panorama da film militante. Non sono persone che noi mostriamo come esempio da seguire. Sono una serie di personaggi che ci raccontano la complessità di questo problema, che ci raccontano le fatiche in cui il pubblico, secondo me, si identifica, ma si identifica con tutta la sofferenza di chi c'è passato e tutte le vite. Non ultimo e soprattutto il caso poi dell'eutanasia in Svizzera, che è una sequenza che fa molto riflettere, fa riflettere tutti, fa riflettere chi è a favore, fa riflettere chi è contro e fa riflettere di quale fatica ci voglia per poter affrontare un passaggio come questo. Ma questo aspetto della riflessione, dell'interrogarsi quali sono i nostri diritti e quanto costano, è la costante del è la cosa a cui la regista Elina tiene di più. Non vuole soluzioni facili, vuole che le persone riflettano e capiscano il vero valore e che ciascun diritto ha comunque dei costi, anche personali. Di che uscita si tratta? Noi stiamo uscendo in una serie di città italiane, per il momento sono una quindicina le sale nelle varie città italiane che hanno aderito. Stiamo lavorando e cominciando a lavorare con l'appoggio di molte associazioni che si occupano di diritti civili, la Luca Coscioni in primis, ma tante altre che si stanno unendo a questo tipo di progetto, e tutte quante lo fanno notando l'importanza di un film che non ha facili soluzioni, ma che fa riflettere, che accende un dibattito in cui, tra l'altro, l'Italia non ha avuto neanche il coraggio di inserire alla fine delle risoluzioni del G7 la difesa del diritto d'aborto per tutti i cittadini europei. E questo è una cosa estremamente grave, che un po' si rifà quello che dicevo prima, cioè il terrore che questi diritti vengano piano piano erosi. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Sulla piattaforma di iWonder, e dal 20 giugno sarà presente lì. Saremo a Torino il 20, saremo il 25 a Firenze, il 26 a Milano al Beltrade e poi un'altra serie di piazze che stanno venendo fuori poco per volta. Il documentario Stray Bodies, Corpi Erranti di Elina Psiku al cinema da martedì 11 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento a Marco Visalberghi di Doc Lab che lo produce. A presto! Arrivederci a voi, grazie e mi raccomando, teniamo alta la difesa dei diritti civili. È una battaglia importante per tutti. Con Clara Pazzaglia, regista del documentario Noelle, in nessun posto. Ben trovata. Buongiorno. Cosa hai raccontato? Noelle parla della situazione circa 7 anni dopo i terremoti del centro Italia, in particolare nel paesino di Tolentino, in provincia di Macerata, nelle Marche, e racconta della relazione dei terremotati con le case in cui abitavano, quindi le loro case terremotate, e quelle in cui sono dovuti andare ad abitare dovendo lasciare le loro case nazionali. In particolare ho voluto parlare del tema dei ricordi e di come le case terremotate siano in realtà degli scrigni in cui le persone che hanno dovuto lasciarle custodiscono i loro ricordi e che quando verranno ricostruite, ristrutturate o addirittura buttate giù e rifatte da capo non saranno più le stesse e insieme a loro saranno cambiati anche i ricordi. Com'è nato il progetto? I miei genitori sono originari di Tolentino e lì vivono tutti i miei parenti e una dei protagonisti del documentario è in effetti mia nonna, che appunto ha dovuto lasciare la sua casa all'età di 85 anni e questo ha avuto un impatto su di lei e in particolare ho voluto trattare del suo rapporto che ha ora con i ricordi e con la memoria e quindi tutto nasce da un'esperienza personale che poi ho deciso di rendere anche il mio progetto di tesi triennale alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che dove mi sono laureata a dicembre. Come hai scelto le tue voci, i tuoi interpreti e le tue interpreti? Sì. Vabbè, appunto, una è mia nonna e ci tenevo perché appunto tutto è nato da lei. Il ragazzo più giovane è Marco, che è un mio amico da tanto tempo e che quando ho iniziato, diciamo, a parlare con i miei amici di Tolentino di questo progetto che avevo in mente, si è dimostrato subito entusiasta e mi ha detto che qualunque cosa avesse avuto bisogno mi avrebbe dato una mano. E infine Antonella, che mi è stata consigliata tramite conoscenti vari all'interno del paese, e quando ho parlato con lei mi ha raccontato la sua storia, mi è sembrata subito importante avere anche lei all'interno del mio documentario. Inoltre era fondamentale per me portare tre punti di vista differenti all'interno della narrazione. Infatti sono tre persone di età completamente diverse che quindi hanno vissuto i terremoti, la ricostruzione, ciò che sta avvenendo ora con l'inizio dei lavori, in tre modi diversi, perché in tre stadi della vita differenti. Dalle loro parole cosa viene fuori? Secondo me ognuno è riuscito a portare proprio un punto di vista diverso. C'è chi da una parte si è rassegnato quasi perdendo la speranza di vedere poi la propria casa ristrutturata, e chi invece, come dice Gustava, che appunto mia nonna, questa non è una cosa che può finire così, perché non può andare così. E chi invece magari ormai è andato avanti e non pensa che ci ritornerà, ma non in maniera negativa, più perché la vita va avanti, le cose cambiano, ormai sono passati quasi 10 anni e tante cose cambiano in così tanto tempo. Come lo hai articolato il documentario? È stato il raccontare sempre il tema dei ricordi e di come è stato vissuto il terremoto e questi svariati anni da quando è accaduto. Prima nel rapporto con una casa e poi con l'altra, nei vari momenti che ci sono stati, diciamo un po' passato, presente e futuro, il terremoto, come si sta ora e che cosa succederà poi alle case una volta che verranno ristrutturate. È stato un po' complicato riuscire a raccontare il passato, che ho scelto di raccontare tramite un po' di materiali d'archivio che mi sono stati forniti dai miei personaggi stessi, perché con questi traslochi in corso sempre a metà non è sempre facile reperire video, fotografie, però credo che aggiungano un lato importante al racconto di ricordi nel documentario. Per te che esperienza è stata? Direi quasi catartica, perché io sono molto affezionata a Tolentino in generale e alla casa di mia nonna, che oramai è stata buttata giù e sta venendo ricostruita, e quindi è stato un po' come affrontare per me e processare tutto il lutto e il cambiamento della città, che comunque ora sta cambiando tantissimo e che avrà una faccia completamente diversa una volta che la ricostruzione sarà ultimata. Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più e se poi ci sono altri appuntamenti di proiezioni pubbliche? Per rimanere aggiornati sul documentario potete seguire la mia pagina Instagram, che è @ClariCookie, e il documentario sarà in proiezione nella sezione Genius Loci al Festival del Cinema di Senigallia venerdì 14 giugno a partire dalle 21:15 a Rocca Roveretta. Il documentario Noelle in nessun posto. Un saluto e un ringraziamento alla regista Clara Pazzaglia. A presto! Grazie mille, a presto tutti! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.